ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Tutti a scuola! Già finita. Non è una sigla, l'abbiamo definita uno stacco, una virgola. Uno stacco, una virgola, ma tu non fai radio da tanto tempo, quindi punto, non lo sai. Vabbè, no, beh, ho detto, cioè, c'è la sigla e mi guarda, no, Peter, come dire, c'è già parla. La tua di sigla, due sigle, vabbè. È brutto in radio. Vabbè. Poi dopo te lo spiego. No, in realtà parliamo seriamente adesso. Maria Piera Ceci, al di là, no, non vorrei che si interpretasse la riapertura della scuola come dire perché i genitori sono sfiniti. Non è solo questo. Cioè, vogliamo pensare che la scuola sia la priorità numero uno di ogni paese, l'importanza dell'istruzione dei nostri ragazzi e ragazze? Ci sono già degli studi in tal senso, adesso, a parte gli scherzi appunto sulle famiglie esasperate, ma anche ragazzini, perché comunque ragazzini sbattuti sul letto tutto l'anno non è che proprio siano felicissimi. E dicevamo, ok, questo è importante per le famiglie, però ci sono degli studi su quanto peserà anche a livello economico sulle retribuzioni, ad esempio, di questi ragazzi che in questo momento hanno un buco formativo, perché non raccontiamocela, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma la didattica a distanza, che è stata necessaria, è inutile riaprire questo discorso, però insomma qualche buco formativo lo ha lasciato. Diciamo, è bello questi eufemismi che usa Maria Piera Ceci. Non una qualche persona buco, educata. Qualche buco formativo, però hanno permesso a molti ragazzi di potenziarsi in Fortnite, per esempio. Assolutamente. E nell'utilizzo del cellulare. Ti faccio sentire il presidente della regione Campania, De Luca. De Luca, io ecco, questa cosa veramente faccio fatica a capirla. Senti qui De Luca. Pensate solo all'apertura dell'anno scolastico, che diavolo si fa? Nelle condizioni attuali non è possibile aprire. Così. Vabbè, De Luca è sempre molto tranchant. Ho capito, ma sono passati 7 mesi da marzo, 7, 6, non lo so. Attimo, dai, mancano 15 giorni, hai voglia a lavorare. In realtà poi, appunto, come dice anche De Luca, la Campania non si sa ancora se riaprirà il famoso 14, che sì, è diventato questa data simbolo. Anche l'Abruzzo deciderà oggi se riaprire il 14, ma già sostanzialmente annunciato, l'ha fatto tra l'altro poco fa da Spezia, che non riaprirà il 14. Lo avevano già deciso direttamente Sardegna, Puglia e Calabria, perché quello che è stato un po', no, un dibattito prima dell'estate, non riapriamo le scuole per richiuderle immediatamente per le elezioni, dibattito che poi a un certo punto si è perso, e di fatto comunque le scuole riapriranno per richiudere subito dopo per le elezioni, tranne in qualche caso virtuosissimo a Bergamo. C'era il sindaco di Bergamo prima, da Simone Spezia, sì, che dimostra che tra l'altro la cosa si è possibile, fare, si può fare, cioè, è una delle mie veramente sì. Questa è una cosa che non so, a me fa proprio venire la pelle d'oca pensare che riapra la scuola per 10 giorni, poi tutta la sanificazione, un processo complicatissimo, e non si può votare nelle anagrafi in qualsiasi altro nelle posto, caserme, nelle caserme, così nelle Gloria ha dimostrato che si può, ma si tutti può gli fare. Altri intanto dicono che si aprirà però, il 14. Maria Piera Ceci, noi abbiamo intanto contattato una insegnante, perché c'è anche tutto il tema dei test agli insegnanti. Elisabetta Zanchi, che insegna, è una docente precaria se non sbaglio, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, sì, inglese, insegnante di inglese, quindi non saprà, sicuramente ci sarà bisogno, perché pare che ci saranno talmente tante cattedre vuote. Oltre 200.000. Ecco che ci sarà, sì, ci sarà, no, io sì, due numerini. Anni, quindi ogni anno sono chiamata settembre-giugno, poi mi licenziano, poi mi riassumono. Quest'anno sono sicuro che la richiameranno, perché sì, ci sarà bisogno. Anche perché avendo quasi 200 punti direi proprio di sì. Senta, c'è il tema dei test agli insegnanti, questo sì, tema per cui ci siamo molto divisi, si dice molti insegnanti sono contrari al test, che non è obbligatorio, ricordiamo, non è stato messo obbligatorio. Lei cosa ne pensa del sierologico, del tampone? Allora, io rispetto a quello che ho detto sempre qui da voi in un'altra trasmissione, sì, allora io non è che non sono d'accordo, per noi è più importante avere in questo momento il tampone, perché ovviamente io devo sapere entro breve se sono contagioso o no, perché se sono contagiosa io non, perché il sierologico fa tutto lo screening e poi dopo, se sei risulto positiva, sì, mi dovranno fare il tampone. Sì, il sierologico non è un esame certo come il tampone. Vabbè, così per tutti, questo è chiaro. Così per tutti. Esatto, e quindi questo è, però poi ripeto, io sono precaria, quindi ieri è venuto fuori una bella, un bell'articoletto sulle varie testate scolastiche in cui dice: sei precario? Va bene, allora te lo paghi tu. Quindi vuol dire che noi, quando adesso entreremo in servizio dopo il 14, diciamo tra il 20, sperando, tra il 20 e il 30 di settembre, chi vuole farsi il tampone se lo fa, no? Si autocertifica. Zanchi, però faccio così la parte del diavolo. Sì. Perché le dovrebbero pagare il test se non sanno ancora se lei insegnerà o no? Nel momento in cui dovesse avere la chiamata e dovesse avere quindi la cattedra, sì, le faranno e le pagheranno, no, anche il test. Così dovrebbe, no, essere. Ma esatto, dovrebbe. Così dovrebbe essere, avrebbe dovrebbe, anche una sua logica, perché al momento lei è un privato, certo, cittadino come me, e quindi ha ragione, ma guardi, no, ma è proprio no, c'è scritto no, i precari se lo devono pagare loro. Il 7 settembre chiudono la CLER, la abbassano, perché non faranno più test, quindi dal 7 settembre ovviamente noi non saremo, anche perché la scuola non è iniziata, quindi noi non saremo in servizio, quindi poi... Beh, io questo lo trovo sbagliato, però è vero. No, come dice, incivile. No, certo, come dice Maria Piera Ceci, lei in questo momento è ogni volta viene licenziata e riassunta. In questa, esatto, fase intermedia di fatto non è riassunta, però dai, non neghiamocelo, verrà riassunta, servirà. Sì. Cioè, quindi... Oppure una volta riassunta dovrebbe essere assicurato. Dovrebbe essere rimborsato. Esatto, rimborsato, cioè, forse, esatto, questo è più sensato. Esattamente, mm-hmm, quando adesso cominceranno le chiamate, darsi un tot di tempo, quindi tipo dal, sì, che ne so, 20 settembre al 20 ottobre, tutti quelli che verranno messi in ruolo magari in servizio in quel periodo, allora mano a mano si fanno i tamponi. Ma siccome è troppo logica, allora siccome è troppo logico fare i tamponi a maggio, perché dovevano già iniziare prima a fare i tamponi, sì, cioè, capisce ma no, capisce su questo fa... guardi, è come la questione di De Luca che dice: con queste condizioni non si può riaprire. Ho capito, ma queste condizioni le scopriamo il 30 di agosto. Allora guardi, le scuole potevano, come hanno detto anche lì il grande Renzi, che parla per sua moglie, probabilmente, io vabbè, non è parla per Renzi, certo, perché la moglie insegna, perché parla giustamente, ma... le scuole potevano riaprire anche il giorno dopo il lockdown, sì, perché tanto messi così mm-hmm, come siamo adesso, quanto vale, cioè andiamo, no, così, vabbè, noi però siamo... insomma delle cose sono state fatte, su, alcune scuole si sono attivate, hanno comprato i banchi, si sono attrezzati con strutture nuove, insomma, diciamolo, è anche un'occasione che i presidi sono chiamati a cogliere per rinnovare i propri spazi e per rinnovare la propria scuola, sia nella didattica che negli strumenti. Quindi non diciamo che proprio è tutto come febbraio. A così questo non è. Proposito, Maria Piera Ceci, Antonello Giannelli, buongiorno, presidente, buongiorno, dell'Associazione Nazionale buongiorno Presidi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. Allora, anche lei è d'accordo? Abbiamo mandato in onda, lei non era collegato, De Luca, che dice: in queste condizioni non si riapre, ma voglio dire che poi riaprire e chiudere dopo una settimana è la stessa cosa, continuare con la didattica online. Ci faccia Giannelli capire. L'ha vista, no? Che una scuola già chiusa a Verbania. Guardi, dico quello che penso come al solito in modo molto diretto, e qua c'è un impegno generale a riaprire per il 14. È evidente che il paese non è omogeneo, mettiamola così. Ci sono situazioni in aree geografiche dove si è più pronti a rispondere a questa esigenza rispetto ad altre, ma questo è sempre così. L'Italia è sempre stata così, dall'Unione in poi, purtroppo. Il cui dire non siamo pronti così in generale, io non lo condivido. Ripeto, poi ci sono anche altre ragioni che fanno sì che si prendano queste posizioni, che magari non hanno a che fare tanto con la realtà scolastica, ma giustamente è politica. Chi fa politica, sì. Giannelli, facciamo un po' di ordine, andiamo un po' con, sì, ordine. Domani partono per esempio i corsi di recupero, perché domani è il famoso primo di settembre, si diceva il primo settembre già le scuole saranno aperte con i corsi di recupero. Ci saranno o no questi corsi? Sì. La risposta è sì, una precisazione. La risposta veramente sarebbe nì, Giannelli, perché insomma, vabbè, mica tanto. Diciamo che ci possono essere scuole in cui non partono come nelle altre, perché ci tengo a dire che non sono corsi di recupero, è una semplificazione giornalistica corretta, legittima, però sono corsi, attività che servono a mettere i ragazzi che avevano alcune lacune in linea con la situazione fisiologica che si doveva avere al 14 settembre. Quindi sono fatti con uno spirito, con modalità anche differenziate, e dunque si potrebbero anche tenere a distanza laddove questo fosse utile, specialmente per quelle fasce di età maggiore. Quindi, e quindi la risposta, risposta è no, perché partono. Molte scuole non le fanno partire per niente, perché diciamocelo, hanno promosso tutti, perché a giugno nessuno si prendeva la responsabilità. Il 14 settembre succede un'altra cosa. Io ho una domanda pratica: se il 14 settembre c'è uno studente positivo, lei da preside ha capito che cosa succede? Sì, allora, tanto per cominciare, non c'è lo studente positivo, c'è uno studente che ha dei sintomi che sembrano essere questi. No, però diciamo, allora, viene accertato dalla famiglia, è positivo, torna a casa, fa il tampone e avvisa la scuola, è positivo. Perfetto. Allora, sarà la ASL, all'esito di un'indagine epidemiologica, a decidere quello che si deve fare. Non c'è alcun automatismo, non è detto che si chiuda la scuola, può darsi che si mettano soltanto alcuni in quarantena che hanno avuto relazioni più strette con quell'alunno, quelli può essere la classe, banco, tanto per dire. Classe. Io faccio un brutto pronostico, secondo me con un tampone positivo tutta la classe viene lasciata a casa. Nella migliore delle ipotesi, vuol dire che viviamo nel terrore di questo virus. Io continuo a sostenere che col 90% degli asintomatici, e come ci ha detto oggi Remuzzi, le terapie intensive ormai svuotate ora, è una follia così. Cioè non ne usciremo mai più, secondo me, così. Sì, tu sei un po' estremo, se utilizziamo però, questo sistema. No, però il mio sospetto è che sia così, perché comunque nessun preside, e Giannelli estrema, da presidente dell'Associazione Nazionale Presidi forse me lo può confermare, si prenderà anche la responsabilità di tenere in classe degli alunni che siano stati in contatto. Da questo punto di vista è l'autorità sanitaria certamente. Diciamo, ci tengo a precisarlo. E onestamente devo dire che mi sembra corretto, lo condivido, perché si tratta di preside di quel tipo, come quindi, fa a saperlo. Però l'ASL deciderà nel giro di tre giorni, l'ASL deciderà in due giorni, tre giorni, nel frattempo, cioè il preside deve prendere, quando alle 9 del mattino la chiamano dicendo guardi che mio figlio è positivo, abbiamo fatto il tampone, alle 9:30 lei cosa fa? Un preside, avviso la ASL, fermo restando che avrebbe dovuto già farlo il medico che deve chiamare la famiglia, perché la famiglia ha un obbligo preciso in questo discorso. Non dimentichiamoci che c'è un discorso di corresponsabilità. La famiglia ha due obblighi molto precisi in tutta questa storia: uno è la misurazione della temperatura ogni mattina a casa, due, chiamare immediatamente o il medico di medicina generale oppure il pediatra di libera scelta. Vabbè, ma quello le famiglie lo faranno, io non credo a questa cosa delle tachipirine e così poi li mandano a scuola con la febbre. Quello lo facevamo magari. No, noi facevamo il contrario, facevamo finta di avere la febbre. Per non andare a scuola. Senta, ma l'autocertificazione dei minorenni a questo punto? Guardi, io credo che là ci sia stato un piccolo travisamento. Ecco. Io ho semplicemente detto che le scuole potrebbero anche chiedere una dichiarazione da parte delle famiglie che ha a che fare appunto con quelle condizioni, quindi non è richiesta minimamente un'autocertificazione, che peraltro dovrebbe essere prevista da una legge che non c'è. E l'obbligo, questa tutela poi di che dei presidi, a tutela dei presidi della questione, no? Cioè perché questa autocertificazione? Chi andrebbe? Infatti, quello che stavo dicendo, in realtà il vero obbligo è quello della misurazione della temperatura a casa. Ma questo lo faranno le famiglie, secondo me. Cara Maria Piera, ciao. Ti ritroviamo lunedì, ma anche martedì. Ma quando comunque sono sempre qua. Quando mi vuoi, sono qua. E più scuola in Italia, se no poi finiamo tutti come Leonardo Manera. Ah, eccolo, guarda che si aggira, eccolo lì, Leonardo. Serissimo, Leonardo. Ciao, Maria Piera, ci ritroviamo tra